Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio ad Andrea Ferro e bentrovati all'appuntamento del lunedì per parlare di trasporti e logistica. In apertura oggi focalizziamo l'attenzione su un tema centrale per il rilancio del nostro sistema logistico e non solo di quello. Parliamo cioè dell'incidenza della zavorra burocratica e delle inefficienze amministrative sull'attività delle imprese di trasporto, inefficienza che si traduce in ulteriori oneri di vario tipo che limitano, se non addirittura compromettono, la competitività rispetto agli operatori e stranieri. È un discorso vecchio: negli ultimi anni sulla via della semplificazione il governo ha provato a snellire i passaggi, atti concreti sono stati la riforma dei porti, l'avvio della piattaforma logistica nazionale e c'è poi il caso dello sportello unico doganale, dello sportello unico amministrativo che ancora non sono operativi. Sta di fatto che la zavorra burocratica continua a pressare il sistema. Per conto di Conftrasporto, Isfort ha provato a misurare i costi delle inefficienze amministrative a carico delle compagnie marittime e delle imprese di autotrasporto. Per queste ultime il danno in termini di mancato fatturato è di 790 milioni, ai quali vanno aggiunti 260 milioni che derivano dai mancati guadagni. L'autore dello studio è Andrea Appetecchia, project manager di Isfort. Lo abbiamo intervistato. Siamo andati a verificare il costo effettivo del singolo adempimento burocratico e amministrativo. Abbiamo identificato 5 adempimenti per le imprese di navigazione e di autotrasporto e quello che abbiamo scoperto è che in realtà, andando a verificare i costi effettivi in termini di personale impiegato, costi di consulenze, attività delle imprese, abbiamo lavorato a identificare quello che è un costo addirittura di circa 1 miliardo solo per 5 adempimenti amministrativi per questo due tipo di imprese. E quindi in realtà la stima che viene fatta dal piano della semplificazione del governo di circa 31 miliardi di costo delle inefficienze amministrative, se questo è il dato solo per due classi di imprese, effettivamente probabilmente deve essere più alto. E questo ci impedisce, diciamo così, di tenere il passo con la vecchia Europa che soffre la concorrenza dei paesi emergenti, però in qualche modo non registra queste performance negative. Ma in realtà il dato parte dalla precedente parte delle analisi, cioè perché noi perdiamo mercato di servizi di trasporto in generale, non solo delle imprese di autotrasporto, anche di navigazione, aereo, ferroviario. Cioè il nostro è un mercato di servizi di trasporto che ha origine e destinazione in Italia, che va crescendo, eppure noi lo perdiamo. Quindi c'è qualche cosa che blocca l'attività delle nostre imprese e il ragionamento sui costi della burocrazia e delle inefficienze amministrative effettivamente può dare una prima parte di risposta. Le anomalie climatiche di queste ultime settimane, con un'estate prolungata e una siccità senza fine interrotta nel corso del weekend dall'arrivo di una perturbazione che sta ora interessando varie regioni, hanno riproposto l'allarme inquinamento nelle città, con superi dei limiti, blocchi della circolazione, addirittura il caso di Torino, appelli a norme di autoprotezione. Sulla strada verso un sistema di mobilità delle persone e delle merci più sostenibile c'è indubbiamente lo sviluppo dei veicoli elettrici, anche se pure su questo circolano, potremmo dire, teorie contraddittorie. Sta di fatto che in Italia siamo piuttosto indietro rispetto ad altri paesi. Giusto per capirci, sulle nostre strade circolano non più di 10.000 auto elettriche o ibride plug-in, cioè che si ricaricano da una presa elettrica. Numeri piccoli piccoli, ma va detto che nel 2016 le immatricolazioni sono aumentate del 60% rispetto al 2015 e se in Norvegia, paese al top delle graduatorie europee, le auto elettriche rappresentano il 5,1% del parco circolante, in Italia sono lo 0,026% del totale e per totale intendiamo un parco auto affollatissimo e vecchiotto. Nel nostro paese infatti si registra il tasso di motorizzazione più alto d'Europa, 610 auto ogni 1000 abitanti rispetto alle 548 della Germania e alle 484 della Francia, e quasi il 14% delle vetture ha più di 20 anni, praticamente quasi 4 auto su 10 sono ante Euro 4. Considerazioni analoghe valgono per i mezzi pesanti e per i veicoli commerciali. Al di là della sicurezza, significa che in Italia l'impatto ambientale è superiore ai parametri medi europei. La diffusione dei veicoli elettrici dipende in larga parte dalla capillarità delle infrastrutture, in sostanza dalla presenza lungo i percorsi delle colonnine di ricarica. Qualcosa si sta facendo sul fronte di investimenti pubblici e privati, e sui veicoli elettrici e sulle opportunità per le filiere dell'automotive che deriverebbero da uno sviluppo deciso di questa forma di mobilità, di European House Ambrosetti ha elaborato una ricerca che è stata presentata nei giorni scorsi a Milano in occasione del Forum Automotive. A curarla Fabrizio Tavazzi, ascoltiamolo al nostro microfono. È un processo in corso, non è definito, stanno dal nostro osservatorio muovendosi le cose in questo senso ed è un elemento assolutamente positivo, incoraggiante ed è un elemento di, come posso dire, riconoscimento e interiorizzazione di una opportunità potenziale che inizia a essere concreta, anche perché dobbiamo vedere con attenzione a quello che stanno facendo gli altri paesi che si sono organizzati da tempo con delle policy specifiche e potrebbero essere dei giocatori più veloce dell'Italia se l'Italia non colma velocemente il proprio gap di visione e organizzazione. Prima, a proposito dell'allarme smog dei giorni scorsi, si diceva di un'estate calda, secca e prolungata. Queste anomalie climatiche hanno condizionato l'attività delle imprese di autotrasporto, in particolare di quelle impegnate nel trasporto di prodotti ortofrutticoli e di acqua. Tra luglio e agosto sono state settimane difficili. Sentiamo come questa situazione in generale ha inciso sull'organizzazione dei servizi da Claudio Donati, segretario generale di Assotir. Si è tradotta nel mettere alla prova, diciamo, il nostro sistema di trasporti, nel senso di aver concentrato la richiesta di trasporto in pochissimo tempo. Questo ha provocato alla fine, più che un vantaggio, diciamo, una serie di difficoltà sia dal punto di vista, diciamo, dei ricavi, dei fatturati, e sì anche dal punto di vista, diciamo, dell'organizzazione dell'offerta rispetto alla domanda che ovviamente veniva in avanti. Siccome stiamo imparando che le anomalie cominciano a diventare la futura normalità, ecco, è una lezione importante per affinare anche l'organizzazione, diciamo, logistica per una modalità di svolgimento della stagione agricola che è molto diversa da quella che magari a cui eravamo abituati fino a pochi anni fa. Parlando prima di mobilità elettrica, si è fatto il punto sull'anzianità media dei veicoli in circolazione sulle strade italiane. Dicevamo un parco vecchiotto. Per quanto riguarda i veicoli industriali, il 75% è ante Euro 5. Il rinnovo delle flotte è quindi considerato inderogabile anche sul fronte della sicurezza stradale. Nel 2016 e nella prima parte del 2017 le immatricolazioni dei mezzi pesanti sono schizzate in alto, ma ora questo processo rischia di arrestarsi e già lo confermano i segnali degli ultimi mesi. Ad infliggere un duro colpo potrebbe essere l'esclusione dei veicoli industriali tra i beni strumentali per i quali è prevista l'agevolazione fiscale del superammortamento. Nel testo della legge di bilancio 2018 approvato dal Consiglio dei Ministri le indiscrezioni in questo senso sono state confermate. Tutto il mondo dell'autotrasporto è in fibrillazione e l'auspicio è che durante l'iter parlamentare che porterà all'approvazione della legge di bilancio le cose possano cambiare. Su questo punto abbiamo intervistato Gianmarco Giorda, direttore generale di ANFIA, l'Associazione Nazionale della Filiera Automobilistica. Noi abbiamo chiesto a più voce, anche facendo delle attività di lobby, di incontro con le istituzioni, che il superammortamento al 140% venisse anche riproposto il prossimo anno, perché è stato, insieme ad altre misure come la legge Sabatini piuttosto che il decreto investimenti, un volano importante per aiutare comunque il mondo del trasporto e in generale comunque la produzione italiana. Per cui vogliamo assolutamente, chiediamo che venga mantenuto il superammortamento anche per il prossimo anno, anche perché misure spot che durano un anno o due non sono assolutamente salutari per il settore. Bisogna comunque sempre ragionare anche in questi ambiti di misure per il settore, in generale per l'economia, su periodi di medio lungo, per cui se si attua una misura per un anno o due, poi viene interrotta in maniera brusca, sicuramente crea più che altro anche come dire, degli effetti che possono essere anche molto negativi sul mercato e in generale sul mondo del trasporto. 18 miliardi di euro per il potenziamento della rete e delle infrastrutture ferroviarie del nord-ovest. L'investimento previsto dal protocollo d'intesa siglato dall'amministratore delegato e direttore generale di RFI Maurizio Gentile, dagli assessori competenti di Liguria, Piemonte e Lombardia. Il 45% dell'intera somma sarà finanziato nell'ambito del nuovo contratto di programma 2017-2021 per il potenziamento della rete ferroviaria, per l'adeguamento agli standard internazionali per il trasporto delle merci, lunghezza dei treni, sagoma, limite, carico assiale e per una migliore connettività ai porti e alle infrastrutture di interscambio strada, mare, ferrovia. Hashtag Autotrasporti oggi finisce qui, grazie per l'attenzione, vi ricordo l'appuntamento del sabato 13:15 con Container, l'approfondimento su questi temi curato come sempre da Massimo De Donato, da Andrea Ferro, grazie ancora e buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.